Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Lungo la ciclabile che porta Francolino, un giorno, svoltando a caso sulla sinistra, dopo una breve salita, mi ero imbattuto nella maestosità del Po. Giunto in cima, dove la strada corre parallela al fiume, mi ero fermato. Avevo pedalato lungo l'argine con quel fiume immenso accanto, con la divinità dormiente. E con me c'era mio nonno. Stringevo il manubrio e scaricavo i polpacci sui pedali. La potenza fluiva precisa, dal pedale alla catena, dalla catena alle ruote. C'era mio nonno, anche se non l'avevo mai visto. Mi chiamo Edoardo Rosso, sono nato a Vercelli, ma studio oramai da un po' di anni a Ferrara, studio giurisprudenza, quindi è diventata un po' la mia seconda città. Le mie passioni principali sono proprio la scrittura, oltre allo studio del diritto, diciamo. Radio 24, oggi è lunedì 23 gennaio 2012, questi sono i giorni della merla, giusto? 23, 24, niente, non uno che lo sapesse, non uno che lo sa di là. Ah, non credo in realtà, perché credo che siano gli ultimi di gennaio, 27, 28, Bonini fa di sì, come dire, certo, però potrebbe valere qualunque cosa. Sono le 16:08 minuti, questa è Radio 24, dicevo, il programma si chiama Voi siete qui, questo programma... Facciamo che voi vi siete messi ad ascoltarlo per la prima volta oggi. Questo è un programma che racconta storie. Ogni giorno racconta una storia diversa, di una persona diversa. Se è la prima volta che ascoltate questo programma e se per caso avete un episodio della vostra vita da raccontare in una pagina, lo scrivete e lo spedite a voi siete qui, @radio24.it. Noi lo pigliamo, gli diamo un occhio, se c'è da modificare, modifichiamo un po' e poi ci facciamo una puntata. In questo programma, sempre se è la prima volta che lo ascoltate, è molto facile, quando riceviamo i racconti, dividerli per categorie. Una delle categorie più folte, più zeppe di racconti è quella sull'infanzia, cioè poca roba sull'amore, che mi stupisce sempre, e poi c'è tanta roba sui nonni, molte storie di nonni. Era Verdi che abbiamo fatto la puntata sui nonni, o giovedì, vabbè, comunque sia, molte storie sui nonni. E poi ci sono invece storie che parlano di oggetti che possediamo e che in qualche modo raccontano una storia. Non siamo qui mica per niente. La puntata di oggi è dedicata alle biciclette, e le biciclette, ne parlavamo con Tiziano, non abbiamo capito bene perché, nemmeno Tiziano, che è più intelligente di me, quindi ho fatto un sospiro di sollievo. Per quale motivo le biciclette hanno... la bicicletta in sé è diventata un oggetto di culto per moltissime persone, al punto da creare proprio del fanatismo vero e proprio. Secondo me quasi più della motocicletta. Oddio, per la motocicletta invece ci sono categorie, ci sono i biker. Però la bicicletta è veramente trasversale, perché la moto ci vai, magari fai gare, magari vai in campagna, oppure magari vai appunto con Harley Davidson tutto vestito di pelle, perché altrimenti non sai chi sei. La bicicletta invece vale dai bambini agli anziani. E quindi questa puntata, la puntata di oggi, è proprio dedicata alla storia della vostra bicicletta. 349-238-6666. Marco mi scrive sul profilo Facebook: me l'aveva recuperata un amico prete operaio dalla discarica. L'ho usata per 4 anni. Quando sono partito per un anno di Erasmus a Parigi, l'ho affidata alla mia fidanzata, perché fosse sicura che, almeno per la bici, sarei tornato da lei. Poi un giorno ero di corsa per prendere il treno e ho sbagliato a legarla davanti alla stazione di Porta Nuova, Torino. Ovviamente lei non c'era più, solo la catena. Di bici non ne ho molte, ma molte di esse hanno una storia da raccontare. Lei però resta l'unica. 349-238-6666, oppure postate la vostra fotografia, cioè la fotografia della vostra bici, sul profilo Facebook del programma, che è Matteo Caccia, Io sono qui. Appunto, essendo un oggetto di culto, ci sono alcuni fanatici, altri invece no, semplicemente hanno caricato la foto della loro bici sul profilo, e di questo vi ringrazio. Il motivo per cui farlo? Nessuno. Semplicemente perché vi va di postare una foto della vostra bici sul profilo Facebook. Ma d'altra parte, il motivo per cui siete su Facebook? Nessuno. Semplicemente che avete del buon tempo a disposizione. 349-238-6666. Questa è la storia di Edoardo e la storia della sua bici. Vedrai, poi ti alzi un giorno e non ci pensi più. Ti scorderai di lei. Me lo dicevano tutti. Solo che le cose non vanno proprio così. Quello che fa male è la consapevolezza che la colpa è tutta mia. Solo mia. Perché se non l'avessi lasciata sola, non sarebbe successo. Ora giro a piedi per strada e guardo quelle là. Gli amici mi ripetono che non ci vuole niente a trovarne un'altra. Sì, è vero, ma io non voglio un'altra. Io voglio lei. La mia. Ero molto affezionato a quella bicicletta. Era tutto ciò che mi restava del nonno che non avevo potuto conoscere. Avevo appena 3 anni quando se n'è andato. Mi sono rimaste le fotografie, i racconti dei cugini più grandi e quella bicicletta. Una Berga di fine anni 40. Una bicicletta che aveva quasi 60 anni e che ancora filava, silenziosa e precisa. Telaio leggerissimo, color argento, cambio a 2 leve, gomme lisce da corsa e fanale a dinamo. Una bicicletta che aveva quasi 60 anni e filava, silenziosa e precisa, su ogni terreno. Era una bicicletta degli anni 40, quindi un po' vecchiotta, diciamo, però aveva la classica struttura della bicicletta da uomo, con una posizione un po' più da corsa, grigio argento, con il cambio di quelli sul telaio, diciamo, che si manovrava con 2 levette che stavano sul telaio. Ricordo le pedalate lungo i viali la scorsa estate, quando nelle ore più calde dopo pranzo, in quel caldo cittadino, anche se strozzato dallo studio, pedalavo moltissimo. Lungo la ciclabile che porta a Francolino, un giorno, svoltando a caso sulla sinistra, dopo una breve salita, mi ero imbattuto nella maestosità del Po. Giunto in cima, dove la strada corre parallela al fiume, mi ero fermato. Avevo pedalato lungo l'argine con quel fiume immenso accanto, quella divinità dormiente. E con me c'era mio nonno. Stringevo il manubrio e scaricavo i polpacci sui pedali, e la potenza fluiva precisa, dal pedale alla catena, dalla catena alle ruote. C'era mio nonno, anche se non l'avevo mai visto. C'erano i ricordi costruiti sui ricordi di altri. Il nonno che si arrampica su quella scala instabile addossata all'albero di Amarene, con noi nipoti a tenerla ferma da sotto. Solo quando il cesto era pieno si recuperava la bicicletta e si poteva tornare a casa. Il più piccolo poteva viaggiare sulla canna, gli altri dovevano camminare svelti. All'epoca io ero il più piccolo, ora pedalavo al posto del nonno. L'unico ricordo che ho è questo della raccolta delle amarene, perché me l'hanno poi raccontato anche i miei cugini più grandi che l'hanno conosciuto, e cioè che quando noi eravamo piccoli lui ci accompagnava sotto questo albero di amarene che era vicino a casa nostra, le raccoglieva per noi praticamente. Noi ci sentivamo molto importanti perché dovevamo reggergli la scala e poi prendere la cesta di amarene. Poi una sera, e ancora mi maledico, la lasciai fuori quella Berga color argento, legata, sia chiaro, ma fuori, e la mattina dopo non c'era più. Con lo stomaco accartocciato e la mente offuscata da una rabbia impotente, decisi che parlarne con qualcuno avrebbe potuto sollevarmi il morale, e quindi presi il telefono. Pronto, ciao mamma. Sì, ciao, che voce, tutto bene? No mamma, mica tanto. E che è successo? Niente, mi hanno rubato la bici. Mi spiace. Lo so. Ma mica tanto, è che la bici in sé non valeva così tanto, è che era la bici del nonno. Sì, oddio, di tuo nonno per modo di dire. In che senso, mamma? Vedi, non era proprio del nonno. Ok, ma cosa vuol dire? Voglio dire che quel pazzo di tuo nonno l'aveva rubata. Una sera, mentre tornava a casa, era tardi, lei era lì tutta sola, di notte. Ci è saltato sopra e se l'è presa. Il nonno, se tu l'avessi conosciuto... Non sapevo se sentirmi meglio o peggio. Lasciai l'umore sospeso, pensando a quella bici ribelle senza padroni. Mi consolidò l'idea improvvisamente lampante che non ero io ad averla persa. Era lei ad essersene andata. You sat in this room raring to go. You hope you find your reason to show. Prima di fare questa trasmissione facevo un programma che si chiamava Io sono qui. E prima di fare quello ne facevo un altro che si chiamava Vendo tutto. Per chi non se lo ricorda o per chi appunto sente questa trasmissione per la prima volta, vi dico velocemente cos'era. È stato il mio primo programma qui a Radio 24. Mi ero lasciato da poco con la ragazza dell'epoca e volevo cambiare vita. E per cambiare vita dovevo fare piazza pulita di tutto quello che mi ricordava di lei. Perché alle cose sfortunatamente ci si affeziona. Non si dovrebbe, lo sappiamo, ma lo facciamo sempre perché è più forte di noi. È uno di quei tranelli in cui alla fine caschiamo tutti, chi più, chi meno. E allora ho fatto quel programma in cui mettevo all'asta tutti quegli oggetti. Però, e mi vergogno un po' a dirlo, c'è un però. Che non ho venduto proprio tutto, tutto. C'è un oggetto che non ho messo in vendita e che mi sono tenuto stretto. perché va bene tutto, va bene la radio, va bene il format, va bene la trasmissione, però ci sono delle cose che è giusto tenere per sé. E no, non parlo di una bicicletta. Il fatto è che io odio gli ombrelli. Quando sto per uscire do sempre un'occhiata fuori e se fa caldo esco leggero, se fa freddo mi copro, se nevica mi imbacucco che sembro Reinhold Messner, se piove invece di solito me ne frego. L'ombrello non ce la faccio a prenderlo. E non so bene per quale motivo, però per me l'ombrello equivale proprio alla patente dello sfigato. Dai, non ve la prendete, fate bene voi ovviamente che lo portate, non sto dicendo che io sia nel giusto e voi nello sbagliato, è il contrario, è proprio una mia turba, lo so. È che gli ombrelli sono grossi, sono ingombranti e il più delle volte sono oggetti di una bruttezza rara. Cioè preferisco andare in giro con il maglione orribile che mi ha regalato mia zia questo Natale piuttosto che andare in giro con un ombrello. E poi c'è anche il fatto che gli ombrelli sono oggetti veramente facili da perdere. Quelle rare volte che l'ho usato l'ho sempre perso. Entro in un posto, in un bar, a casa di amici, lo lascio fuori. Poi esci, non piove più, te lo dimentichi, arrivi a casa, te ne rendi conto e ti maledici per avervi buttato via l'ennesimo maledetto ombrello. L'unico oggetto che non ho messo all'asta durante la stagione di quel programma, di Vendo Tutto, è proprio un ombrello. È orribile. Ha il manico bianco, la canna trasparente e la tela gialla. È veramente brutto. Eppure ci sono affezionato. E sapete perché? Perché lui è più veloce di me. Io ho fatto di tutto per perderlo, per lasciarlo a casa di qualcuno, per abbandonarlo nelle ombrellerie messe fuori dai locali. Alla fine lui torna sempre, manco fosse quei cagnoloni teneri delle notizie di Studio Aperto, avete presente? L'ho trovato una sera fuori da un teatro. Ero andato a vedere uno spettacolo che credevo fosse bello, invece era una boiata. Ed ero così deluso che feci una cosa che non avevo mai fatto prima. Durante lo spettacolo, con tutte le accortezze possibili, mi alzai, presi la mia roba e me ne andai. Fu un gesto democratico, o almeno io penso così. Liberatorio soprattutto, e quasi mi riconciliò con il teatro e con quella serata orribile. Quando uscii dalla sala pioveva, forte, molto forte. Io non avevo ombrelli, e allora la signora alla cassa me ne regalò uno che qualcuno aveva abbandonato in teatro mesi prima, dicendomi, lo prenda pure, è suo. Ecco, da allora quell'ombrello, che per me è un simbolo di libertà e democrazia, è sempre con me. Me l'hanno riportato a casa amici a cui avevo tentato di sbolognarlo. L'ho ritrovato come per magia nel bagagliaio della mia macchina. Una volta l'ho scoperto infognato in solaio, altra volta in cantina. Allora ho deciso che è giusto che stia con me. Adesso sta attaccato all'appendiabiti della mia nuova casa. Sta lì e non fa nulla. E quando fuori piove, io lo lascio fermo immobile, un po' perché a me gli ombrelli fanno schifo, e un po' perché adesso ho paura di perderlo. You had my heart, and we'll never be a world apart. Maybe in magazines, but you still be my star. Baby, cause in the dark, you can't see shiny cars. And that's when you need me there, with you I always share. Ed è il netto vantaggio sul gruppo. Ma interessiamo il signor Giardullo. Quasi a porco coda. Io devo ringraziare Edoardo che ha mandato questo racconto. Primo perché il racconto è molto bello, e poi perché con questa cosa che ha postato sul profilo Facebook, e adesso gli chiederò di più, mi ha riconciliato con il termine biciclettata, perché il termine biciclettata mi ha sempre messo un po' di malinconia. Dove sei di più? Pronto Edoardo? Pronto, ciao Matteo. Ciao, come stai? Bene, bene, grazie, tu? Bene, ti ringrazio. Senti, Edoardo, mi dici quanti anni hai? Perché non capisco mica dalla foto che hai. Sembri un ragazzo molto giovane, ma potresti avere anche 40 anni. Con rispetto, con rispetto parlando, per i ragazzi molto giovani ai quarantenni. Ma ne ho quasi 26, ne ho 25. Benissimo, era esattamente quello che pensavo in realtà, Edoardo. Guarda, ci avevo azzeccato quasi completamente. Tu sei di Vercelli, quindi siamo vicini di casa in qualche modo, ex vicini di casa. Possiamo dire che siamo vicini di casa. Io sono nato a Vercelli, vissuto lì fino ai 18 e poi mi sono trasferito per gli studi universitari a Ferrara. Ma e quindi stai ancora studiando? Sì, sto ancora studiando perché sai il percorso è lungo. Poi che percorso è? Me lo ricordi, scusami. È giurisprudenza. Ah, giurisprudenza. Ma per fare il notaio o per fare l'avvocato? Ma questo non lo so ancora, devo dirti la verità. giustamente tu dovresti dirmi che dovrei saperlo, però... No, guarda, di solito mio padre mi diceva, dovresti saperlo. E io in teoria dicevo, sì sì, certo lo so, e sparavo una a caso. Senti, a Ferrara, perché a Ferrara però? Ecco, questa è un'altra bella domanda. Beh, diciamo che c'era un corso di laurea particolare in giurisprudenza, ma che ti permetteva di fare il famoso ciclo unico di 5 anni anziché il 3 più 2, quando all'epoca c'erano questi 3 più 2. Ah, ok, quindi è semplicemente meglio, perché, cioè volevi fare il percorso lungo? Sì, perché sapevo che comunque avrei voluto poi prendere la laurea magistrale, quindi mi sono tolto di mezzo una laurea breve e ho scelto la strada più lunga fin da subito. Senti, ma perché tutti dicono che la Ferrara è la città delle biciclette? Nel senso che immagino ce ne siano molte in giro e le ho anche viste, ma ci sono dei dati tipo che 2 cittadini su 3 vanno in giro in bicicletta? Sì, più che altro c'è un dato di biciclette pro capite altissimo, cioè ci sono almeno 4-5 biciclette per abitante. Ah. Sì, perché tutti ne hanno più di una, perché c'è la bicicletta per ogni esigenza. Per ma esempio... però perdonami, le strade della città sono anche, diciamo, agghindate perché uno ci possa andare in bicicletta, immagino. Sì, più che le strade, è proprio una cultura della bicicletta, perché per esempio gli automobilisti sono molto più tolleranti, okay. Cioè ti permettono anche di andare magari contromano senza farti spanalate. Cosa che a Milano invece ti uccidono in generale gli automobilisti. Se provi. Io ho personalmente paura di andare in giro in bicicletta a Milano. Torniamo però un attimo a questa biciclettata al mare, stai lì? Allora, come sta andando? Impressioni di settembre? No, bene, perché comunque abbiamo avuto una giornata meravigliosa, fino adesso non c'è stata una nuvola e il caldo è sopportabile. Ok. Però il culo fa male. Cioè, il culo fa male e vedo che hai un braccio rosso. Ecco, con... facciamo questa annotazione, ci siamo accorti di avere... Allora, questo video l'ha postato Edoardo sul profilo del programma e si intitola Una tranquilla biciclettata al mare. Mi dici che cos'è, velocemente purtroppo Edoardo, che abbiamo praticamente finito? Allora, sono i miei due coinquilini, eravamo in 3 in casa, uno di loro 3 si sarebbe laureato di lì una settimana e allora abbiamo deciso di fare passare una giornata insieme per consolidare l'amicizia, sì. L'ultimo giorno insieme. Abbiamo preso le biciclette da Ferrara e abbiamo seguito la ciclabile che c'è sulla destra Po fino praticamente a Gorino. Che è la più lunga d'Italia, leggevo? Sì. Che sono 120 chilometri. Senti, percorre proprio tutto il fiume. Sì, sì, che poi diciamo è quello che ci racconti anche nel tuo racconto. L'ultima cosa, hai più trovato con la bici? Ovviamente no. No, purtroppo no. Edoardo, ti ringrazio per il racconto, complimenti e in bocca al lupo per legge. Grazie a te e crepi il lupo. Ciao, grazie. Voi siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. Edoardo è qui sul sito di Radio 24, alla pagina di Voi siete qui, dove c'è la mappa che vi ricordo sta prendendo sempre più forma. C'è la sua foto oggi. E se andate a vederlo capite per quale motivo ho detto che ha il viso che potrebbe essere un ventenne o un quarantenne, con il rispetto per i ventenni e pure per i quarantenni, di cui io faccio parte peraltro. Ha degli occhiali con la montatura nera, ha un viso proprio pulito. Guarda, è uno di quei ragazzi che la nonna direbbe ha proprio la faccia da bravo ragazzo, e ha su una maglietta con sopra scritto resisto più sott'acqua che a lavorare. 349-238-6666, ma anche il profilo Facebook del programma, che è Matteo Caccia Io Sono Qui, e ringrazio proprio quelli che qui su Matteo Caccia Io Sono Qui hanno postato le foto, come Gianmarco. C'è una foto di montagne abbastanza aride, Alto Atlante Marocchino, luglio 1996, con la bici si fa ovunque. E poi ancora Giovanni, comprata con tanta fatica, poi dopo solo un mese mi è stata rubata, perché c'è la foto, in casa la teneva la bicicletta, è una mountain bike. Grazie a un colpo di fortuna ai carabinieri è tornata a casa qualche giorno dopo il furto. E poi ancora in bici sulle montagne, poi c'è un tandem, ecco la mia limousine, e poi questo è il mio preferito. La mia prima BMX, è la foto di una BMX, regalata dai miei. PS, la foto non è la mia, l'ho trovata su internet, ma per farvi capire più o meno il modello. Grazie Michelangelo. E poi qualcuno mi scrive, dov'è? Liliana. Vorrei vendere la mia bici, è del periodo fascista, quanto può valere? Liliana, io non lo so, non sono un valutatore di biciclette e sinceramente non le vendo nemmeno, quindi vai su Google e scrivi bicicletta periodo fascista, prezzo, e qualche esempio ti uscirà. Giorni della merla, grazie a Frank, 29, 30 e 31 gennaio, quindi ancora non ci siamo. Poi mi è arrivata questa storia a proposito delle vostre storie di biciclette. Atala, Lamberto, Atala 1980, bici d'epoca ristrutturata da un amico e comprata per il mio primo anno universitario a Milano, ovviamente senza pensare al pericolo mortale dei biciclette binari del tram o del pavé. 4 km e 7 all'andata e al ritorno, ogni giorno di università, dal 31 agosto al 14 luglio, senza mai tradirmi. Ora la mia bici è molto consumata rispetto alla foto, perché manda la foto, ma comunque nonostante tutto mi scarrozza ancora per Milano e penso che il mio rapporto con la città passi attraverso di lei, questo di sicuro, e probabilmente anche attraverso i tuoi polmoni. Michela, la mia si chiamava Laura, imitazione della Graziella che costava troppo. La Graziella da cui, quando uno si sente male, dice: sto malissimo, sono piegato come una Graziella. E poi è arrivato... non è arrivato niente, l'ho trovato perché lo conoscevo. Quando... si parla di ciclismo, intendo di corridori e di corse, ci sono dei pezzi, se andate a cercarli, scritti negli anni 50, a fine anni 40, quando ancora la televisione non esisteva, c'era solo la radio e c'era la stampa che raccontava corse come il Giro d'Italia. All'epoca i giornali come il Corriere della Sera, la Gazzetta dello Sport, ma in particolar modo il Corriere, mandava a scrivere di ciclismo gente come Dino Buzzati. Pinerolo, 10 giugno, notte. Quando oggi, su, per le terribili strade dell'Isoar, vedemmo Bartali che da solo inseguiva a rabbiose pedalate, tutto lordo di fango, gli angoli della bocca piegati in giù per la sofferenza dell'anima e del corpo, e Coppi era già passato da un pezzo, allora rinacque in noi, dopo 30 anni, un sentimento mai dimenticato. 30 anni fa, vogliamo dire, quando noi si seppe che Ettore era stato ucciso da Achille. Vi sembra troppo solenne e glorioso il paragone? Ma a cosa servirebbero i cosiddetti studi classici se i loro frammenti a noi rimasti non entrassero a far parte della nostra piccola vita? Fausto Coppi certo non ha la gelida crudeltà di Achille, ma in Bartali, anche se scostante e orso, anche se inconsapevole, c'è il dramma, come in Ettore, dell'uomo vinto dagli dèi. Contro Minerva si trovava a combattere l'eroe troiano ed era fatale che soccombesse. Contro una potenza sovrumana ha lottato Bartali e doveva perdere, per forza. La potenza malefica degli anni. Intanto il cuore è formidabile, perfettamente in ordine. L'apparato muscolare è a posto, lo spirito è saldo come nei tempi della fortuna. Ma il tempo ha lavorato dentro di lui, inavvertito. Ha toccato appena i meravigliosi visceri. Una cosa da niente, né medici né strumenti registrano alcunché di mutato. Eppure l'uomo non è più lo stesso. E oggi, per la seconda volta, ha perso. Ciao Matteo, mia mamma si è sposata nel 1966 e si è portata in dote una bicicletta Berga, Renata La Vicenza, che era la bicicletta del nonno di Edoardo. E poi ancora qualcuno mi scrive che la ciclabile in questione, quella di cui parla Edoardo anche nel suo breve documentario, cortometraggio che ha caricato su Facebook, la ciclabile in questione in realtà è molto più lunga, si tratta dell'argine maestro del Po. E io, ad esempio, mi fa ridere questo, e io ad esempio l'ho percorsa da Cremona fino al delta del fiume, sono circa 400 chilometri. E poi invece una storia più recente la manda Irene. La mia è un'alpina marrone, che non so cosa voglia dire, tipo una bici degli alpini. È una marca alpina, certo. Arrivata qualche mese fa, il giorno del mio 25esimo compleanno, mi hanno fatto entrare nel negozio con gli occhi chiusi, non sapevo nemmeno dove andassimo ed è stato amore a prima vista. Come si chiama? Si chiama Felice, ovviamente. Paul scrive anche: adesso ho una full tecnica, ma sono legato alla mia vecchia Cinelli Salamandra. C'hanno dei nomi. Ho tenuto dalla cresima per oltre 10 anni, con lei un sacco di avventure giovanili. E tra l'altro con Tiziano ci domandavamo se perché io avevo una Saltafos da piccolo, e ci domandavamo se la Saltafos era tipo un nome che avevo inventato io perché saltava i fossi, oppure esiste proprio una bicicletta che si chiama Saltafos. Qualcuno l'ha caricato sul profilo delle foto, ma non era così. Bonini invece c'aveva quella, le Harley Davidson delle biciclette, credo di sì. Grazie a quelli che hanno reso possibile anche il programma di oggi, che sono Federico Bernocchi, Tiziano Bonini, Paolino Corleoni e Margherita Aina. La storia di oggi era la storia di Edoardo e parlava di biciclette. Quella di domani è la storia di Emilio e parla di sci. Fai gli ultimi tornanti, poi passi il paravalanghe e poi la strettoia, dove c'è il negozio di alimentari e l'edicola del vecchio paese. Fuori dal bar c'è un vecchio operaio degli impianti di risalita. Indossa una giacca da maestro di sci. È quella di suo figlio. Ha in mano il sacchetto del pane, il giornale piegato sotto braccio e ti guarda passare. È lì fermo immobile e tu stai per togliere la mano dal volante per salutarlo. Ti ricordi di lui? Ti metteva il piattello dello ski lift sotto il sedere quando venivi qui per le gare. Categoria cuccioli. Quando era? 20 anni fa. Forse di più.